Con Francesca Zanni per parlare dello spettacolo Cara professoressa, da un testo di Lyudmila Razumovskaya, che da Francesca è stato adattato per la regia di Andrea Bizzarri, che sarà a Roma al Teatro dei Servi dal 26 al 28 novembre. Francesca, ben trovata. Ciao, ciao, ben trovato, ciao a tutti. Racconti di questo lavoro? Allora, questo lavoro è un lavoro molto interessante. La Razumovskaya è una delle più affermate e interessanti scrittrici della perestroica di Gorbaciov, ed è un testo ambientato in Unione Sovietica nel 1988, quindi subito prima, appena prima del crollo del muro di Berlino. Era un momento di grandissimi cambiamenti per il paese, perché dopo anni di quasi isolamento, arrivava finalmente qualcosa dall'Occidente, i ragazzi iniziavano a sognare, ma i loro sogni spesso si riducevano a poco. Nell'adattamento io ho cercato ovviamente di evidenziare invece la modernità di questo testo, perché veramente sembra scritto adesso, e ovviamente introducendo elementi da cui non possiamo più prescindere, la tecnologia prima di tutto, quindi l'uso dei social in genere, dei cellulari per comunicare, condividere in tempo reale tutto quello che si sta facendo. Questi ragazzi sono iperconnessi e quindi invece di vivere la realtà la riprendono continuamente. Questa cosa crea uno scollamento un po' nella loro personalità tra chi sono veramente e chi dicono di essere. E quindi ho trovato una grandissima modernità in questo testo, perché in questo momento storico credo che anche noi siamo alla fine di un'epoca come la Russia della fine degli anni 80 del Novecento. Devo dire che sono stata molto aiutata dalla traduzione fatta per noi, per insomma, la nuova compagnia dei giovani, diretta da Marco Cavallaro, da Valerio Piccolo, la traduzione dal testo originale, quindi ho lavorato su una traduzione di prima mano, perché in effetti tutti gli adattamenti che sono stati fatti da questo testo sono stati fatti su una traduzione inglese, quindi dal russo all'inglese, mentre io ho lavorato sulla traduzione russa e questa cosa mi ha aiutato tantissimo. Questa professoressa, che invece ha fatto una scelta proprio di vocazione, ha proprio una vocazione nei confronti del suo mestiere, purtroppo non riesce a capire, nonostante questo, nonostante il grande amore per il suo mestiere, non è in grado di capire i suoi studenti e l'insoddisfazione dei suoi studenti. Che percorso ha avuto e sta facendo questo spettacolo? Allora, questo spettacolo ha debuttato l'anno scorso, poi è stato ripreso adesso. È stato a Milano e torna ora a Roma, e devo dire che è uno spettacolo anche molto interessante per le scuole, perché in effetti tutte le scuole, poi i ragazzi di questa età che vengono a vederlo, siccome gli attori anche in scena sono loro coetanei, cioè sono attori che sono veramente appena usciti dal liceo, c'è veramente una corrispondenza tra quello che vedono in scena e la loro vita reale. Di quest'autrice, cosa hai apprezzato maggiormente nella scrittura? Come ti dicevo prima, veramente la grande modernità. Moderna. Ovviamente ho dovuto togliere tutta la parte che riguardava proprio la Russia e quindi cose che magari non sarebbero state ben comprese, essendo un'altra cultura, e quindi molti riferimenti anche letterari che c'erano nel testo, ma in realtà poi quello che ti esce fuori è proprio questa grande contemporaneità, questa maniera proprio di leggere dentro l'anima di questi ragazzi e anche di questa professoressa, per cui la costruzione anche del testo è molto interessante, perché inizia come una commedia borghese e poi diventa una cosa veramente molto violenta e molto tragica, e quindi devo dire che insomma questa cosa è la cosa che mi ha colpito di più. Sì. Francesca, questa stagione teatrale dove ti vedrà e su cosa ti vedrà impegnata? Allora, questa stagione teatrale, oltre ovviamente a questo debutto al Teatro dei Servi, ci sarà la ripresa del mio spettacolo Cinque donne del Sud, che ho scritto e diretto con protagonista Beatrice Fazzi, il 17 e 18 dicembre alla Sala Umberto, per cui sono molto contenta di riprenderlo. È uno spettacolo che ho molto amato scrivere e anche dirigere e lavorare con Beatrice. Il 27 novembre invece a Parigi ci sarà una presentazione di un altro mio spettacolo che si chiama Tutto tutti i miei cari con Crescenza Guarnieri e presso l'ambasciata italiana, e quindi anche questa è una cosa che ovviamente mi riempie d'orgoglio. E poi sto scrivendo delle cose nuove, ovviamente sto anche lavorando, ho appena diretto un videoclip musicale che tra l'altro è stato ieri in anteprima sul portale dell'Ansa per l'uscita del nuovo disco di Valerio Piccolo, che sta facendo adesso un radio tour negli Stati Uniti, e quindi questo, insomma. Bene. E allora ricordiamo l'appuntamento con questo spettacolo, cara professoressa, di Lyudmila Razumovskaya, per l'adattamento di Francesca Zanni, la regia di Andrea Bizzarri, a Roma al Teatro dei Servi dal 26 al 28 novembre. Francesca, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, viva il lupo! Ciao! Ciao.